Con Federica Polenta, curatrice della mostra fotografica Roma allo specchio. A Roma, allo spazio Off in piazza San Cosimato 39, sabato 17 maggio 2025. Ben trovata. Di Ciao Federico, ciao a tutti. Si cosa si tratta? tratta di una mostra fotografica in cui sono stati scelti 10 luoghi di Roma che sono stati oggetto di interesse negli acquerelli di Ettore Roesel Franz, pittore romano vissuto alla fine dell'Ottocento e che ha realizzato nella sua Roma sparita 120 acquerelli in cui raccontava le trasformazioni di Roma occorse dopo il 1870, quando Roma diventa capitale del Regno d'Italia. E tra le più importanti imprese che furono fatte, quella della costruzione dei muraglioni, che andò a mutare completamente il volto di Roma. E un po' con spirito nostalgico, un po' per spirito documentario, questo pittore decide di fermare in un'istantanea quella che è la Roma prima di questi travolgimenti. E la mostra tende invece a mostrare come è cambiata la Roma da oggi all'Ottocento. E la cosa molto carina è che spesso ci sono dei posti, degli scorci che sono rimasti completamente identici. C'è per esempio il vicolo della Volpe, che è come era dopo il 1878, quindi è interessante anche questo aspetto. Come nasce questo evento? È un progetto a cui stiamo lavorando con il fotografo Luca Carrazza da diverso tempo, perché negli anni scorsi, in particolar modo durante quest'anno, ci sono stati diversi cantieri a Roma. Quindi io che avevo una grande passione per questo pittore romano, è come se mi fossi ritrovata a vivere la stessa sensazione che aveva lui nell'Ottocento. Cioè, mi sono resa conto che proprio a seguito di questi lavori Roma stava cambiando, comunque anche la presenza dei lavori stessi la trasformava sensibilmente. Quindi, insomma, luoghi che per me erano visti in un modo li riscoprivo in maniera diversa. E quindi con Luca abbiamo pensato di portare avanti questa iniziativa che poi appunto sabato verrà ospitata in questo spazio molto suggestivo perché siamo comunque al centro di Trastevere. Ci parli anche un po' di Luca Carrazza? Luca Carrazza è un fotografo, abbiamo lavorato con lui ad altri due progetti di street photography, quindi la sua attenzione si rivolge sempre alla vita che passa nella città. E per questo tipo di progetto si è dedicato piuttosto che al paesaggio umano, al paesaggio urbano, quindi è stato sensibile a quelle che sono state le mie richieste e vedrete insomma qual è il suo occhio che a mio avviso ha una grande capacità di rendere evidenti degli aspetti della città ma anche degli esseri umani che sono poi a volte anche molto divertenti. Come sarà allestita la mostra? Con le fotografie di Luca sono 10 scatti accostati a una riproduzione degli acquerelli. Una riproduzione perché ovviamente gli acquerelli originali possono essere visti dal Museo di Roma in Trastevere. E quindi il fruitore avrà modo di vedere appunto quali sono i particolari che sono cambiati dalla Roma dell'Ottocento ad oggi. Che formato hanno le opere? 40x30 queste riproduzioni, invece gli acquerelli di Ettore Roesel Franz sono molto molto più grandi. Ci sono dei riferimenti internet per tutti i dettagli? C'è la pagina Facebook, il mio profilo Federica Polenta, il mio profilo Instagram Federica in Arte. La mostra fotografica Roma allo specchio, a Roma, allo spazio Off in piazza San Cosimato 39, sabato 17 maggio 2025 alle ore 18:30. Ci vediamo lì. Sì, ci vediamo lì. Buona giornata.